in the weekend schedule I've put in one or two short meditation periods. In questo orario del weekend ho inserito alcuni periodi più brevi di meditazione. Just to help people get over the prejudice that a meditation session has to be 40 minutes or 1 hour. Per superare questo pregiudizio che vuole che le sessioni di meditazione debbano essere lunghe, di 40 minuti o di un'ora. In daily life sometimes we only have 10 minutes. A volte nella vita quotidiana abbiamo solo 10 minuti. So that's all we have, so we have to use it. Tutto quello che abbiamo e quindi lo dobbiamo usare. It's no good saying to ourselves, well, there's no point in doing 10 minutes. Quindi non serve a niente dire a noi stessi, beh, è inutile fare solo 10 minuti. But just to establish that sense of contentment, that focus and that level of awareness is really fruitful. Ma è molto utile, da buoni frutti, anche solo stabilire questo livello di consapevolezza, questa centratura, questo essere centrati. We have to eat again. Adesso dobbiamo mangiare di nuovo. And we do this every day. So this is always an opportunity to investigate the psychology around pleasure. Questa è una cosa che facciamo tutti i giorni, quindi è un'ottima opportunità per investigare la psicologia che sta con il piacere, diciamo, psicologia del piacere. And in case I forget to say it, even if you just choose one cup of tea or something every day to do in this mindful way, it will have an effect on you. E anche se voi doveste scegliere una sola cosa, anche solo tipo una tazza di caffè o di tè, scusate, una tazza di tè per fare questa esplorazione, allora è la fatta in maniera consapevole, allora è molto utile. One of the main technique the Buddha uses to develop insight is to deconstruct our experience. Uno dei metodi usati dal Buddha per sviluppare l'insight è quella di decostruire la nostra esperienza, cioè di ristrutturare la nostra esperienza. To pull everything apart, to see components. Ecco, quindi scomporre il tutto e vedere le componenti, le cose di cui è composto. And how to see that one thing always arises dependent on something else. E vedere che ogni cosa che sorge, sorge in dipendenza di qualche altra cosa. And in this way we come to understand that nothing has its own individual existence. In questo modo veniamo a comprendere che nulla ha una sua propria esistenza individuale. So when we're eating, the main purpose is to see the distinction between enjoying something and indulging in it. Quindi quando mangiamo la cosa principale è vedere questa distinzione tra l'apprezzare qualcosa e indulgere in quella cosa. And so we have to go very slowly and begin to see the parts that make up the process of eating. E quindi dobbiamo andare molto lentamente e vedere le parti che compongono questo processo del mangiare. So first of all there's the tasting. Innanzitutto c'è il gustare. Where does taste arise? Da dove sorge il gusto? Put your attention right there on that 2 square centimeters of skin. Quindi mettete la vostra attenzione proprio lì, su quei 2 centimetri quadrati di pelle. Make it very clear to yourself that this is the body. E fate in modo che sia molto chiaro per voi, questo è il corpo. And when that is very clear, as it were, you can move backwards a bit. Quando questo è molto chiaro potete fare un passo indietro. And feel a more subtle energy that we call joy. E sentire un'energia più sottile che noi chiamiamo gioia. And recognize that this joy has arisen dependent on the food. E notate come questa gioia è sorta in dipendenza dal cibo. If the joy has not arisen, you must complain to the cook. Se la gioia non è sorta, allora potete lamentarvi con la cuoca. So here are two things. First of all, the sensation base of the body, and the felt emotional feeling within the heart. E allora qui ci sono due cose, quindi la sensazione che è collegata con il corpo e la sensazione emotiva collegata. Can you make that distinction? Can you see that distinction? Riuscite a distinguere, riuscite a fare questa distinzione? This is your first, or it's your pre-vipassana insights. Questi sono i vostri insight di vipassana, i vostri pre-insights di vipassana, cioè come dire i prerequisiti. To see the body and mind are two different systems. Cioè vedere che il corpo e la mente sono due sistemi diversi. The second one is to see how the one is dependent on the other. Quindi la seconda cosa è vedere come uno dipenda dall'altro. Then become aware every time you begin to take a bite, every time you begin to eat, the process of desire. Poi notate come ogni volta che prendete un boccone c'è questo processo del desiderio. How do you experience desire? Voi come lo sperimentate il desiderio? Is that different from tasting, different from emotions? Ed è diverso dal gustare, è diverso dalle emozioni? You have to pull that apart. Quindi è come se lo doveste deframmentare, separare. And on top of that, there's the mind with its thinking. Poi sopra tutto questo c'è la mente che pensa. And so all you're doing is just eating very slowly, very mindfully, just making these distinctions. Quindi la cosa da fare è mangiare molto lentamente, molto consapevolmente, facendo queste distinzioni. And how the one is dependent on the other. E vedere come una dipenda dall'altra. If we are sensitive to the body will tell us when we've had enough. Se siamo sensibili al nostro corpo, sarà il corpo a dirci quando ne abbiamo avuto abbastanza. When the body is telling you enough, just catch the override, more. Quando il corpo vi manda il segnale, vi dice è sufficiente o basta, voi notate quello che viene sopra, diciamo, che dice ancora. So now we can say this is greed. Adesso possiamo dire questa è l'avidità. This is the mind seeking happiness in pasta. Questa è la mente che cerca la felicità nella pasta. Is that a continuously reliable source of happiness? Questa è una fonte continua e affidabile di felicità? It's not worth investing in pasta for our happiness. Non vale la pena di investire sulla pasta per la nostra felicità. These are little reflections, you see. E queste sono delle piccole riflessioni. So one sits still and waits for that desire to pass away. E quindi uno sta lì fermo e aspetta che quel desiderio passi. Now there are two states of mind which are very similar. Sono due stati mentali molto simili. The first is when you satisfy a desire, you feel gratification. Allora, il primo è quando un desiderio viene soddisfatto, allora uno sente gratificazione. When the mind is without desire, you experience contentment. Quando invece la mente è senza desiderio, si ha un senso di appagamento, l'ho detto già prima, appagamento. One leads to liberation and the other to hell. Uno conduce alla liberazione e l'altro all'inferno. To an insatiable addiction to the pleasures of life. Ad una insaziabile dipendenza dai piaceri della vita. So to make that distinction is very important for us. Quindi è molto importante fare questa distinzione. Now the last thing to say is, supposing you've taken too much food. Allora, l'altra cosa da dire è, supponiamo che voi abbiate preso troppo cibo. And the body says enough. E il corpo vi dice basta. So now you have a choice. Avete una scelta. You can eat the food and damage the body. Potete continuare a mangiare e danneggiare il corpo. Or throw the food away and feel guilty. Oppure buttare via il cibo e sentirvi in colpa. Considering all the people who are not being nourished these days. Considerando tutte le persone che non hanno abbastanza cibo in questi giorni. Guilt and shame. Quindi senso di colpa e vergogna. My advice to you is to throw away the food and feel very guilty and shame. Il mio consiglio è di buttare il cibo e sentirvi molto in colpa e vergognarvi. In this way, these two qualities become our guardians. E quindi in questo modo queste due qualità diventano i nostri guardiani. The Buddha calls guilt and shame the guardians of society. Il Buddha chiamava proprio la vergogna, il senso di colpa e la vergogna, i guardiani della società. He doesn't say they're wholesome, he doesn't say they're good, we should have them. Non dice che sono salutari, che sono cose che dovremmo avere. But what it means is the next time we approach food, we say to ourselves, "Oh, I don't want to feel guilty and shame again." Ma l'idea è che la prossima volta che ci avviciniamo al cibo, penseremo, "Ah, io non voglio provare ancora quel senso di colpa e quella vergogna." But greed, you see, does not allow us to experience these things. Ma è l'avidità che non ci permette di sperimentare queste cose. Rinunciamo al pranzo. We'll give up our lunch. So every time you eat in daily life is an opportunity for you to really begin to discover this whole process of how we create happiness from sensual pleasure. Quindi tutte le volte che mangiamo nella nostra vita quotidiana possiamo cogliere questa occasione per scoprire come noi inseguiamo la felicità attraverso i piaceri sensoriali. So make sure that when you've got your food and you're sitting there, put the right intention in the heart. Quindi assicuratevi che quando siete lì seduti con il cibo davanti, che abbiate una giusta intenzione nel cuore. This food is to nourish the body. Questo cibo è per nutrire il corpo. Full stop. Punto. The Buddha experiences taste, but he does not experience greed for the taste. Il Buddha prova il gusto, ma non il desiderio per il gusto. This is what makes us different from the Buddha. Ed è questo che ci rende diversi dal Buddha. Now, after lunch is one of those periods where there is nothing to do, inverted commas. Allora, dopo pranzo è uno di quei periodi in cui non c'è niente da fare, tra virgolette. So be careful, don't let the mind wander. State attenti, non lasciate che la vostra mente divaghi. Either do some walking meditation practice in a quiet, gentle way. O fate della meditazione camminata in un modo tranquillo e gentile, delicato. Or see if you can practice this abiding in the present moment. Oppure vedete se riuscite a praticare questo dimorare nel momento presente. Either walking around the property or just sitting somewhere, but keeping the attention on the basic senses. Quindi potete o andare in giro così in questo luogo, oppure sedervi tranquilli, ma l'importante è avere questa consapevolezza riguardo ai sensi, attraverso i sensi. Awareness, calmness, steadiness of attention and openness. Allora, awareness. Consapevolezza. Calma. Calma. Steadiness of attention. Quindi la stabilità nell'attenzione and e l'apertura. L'apertura. And if you feel you need un piccolo siesta. Se avete bisogno di una piccola. Do not feel guilty. Non vi sentite in colpa. I myself am an aficionado. I receive the food. Oh no, we don't do that. That's right. So, buon appetito.